Salva Danaio di Deborah Rosciani. Era un terrificante Savoia Marchetti 1915 in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi due conflitti mondiali. È rifiutato ormai con orrore da tutte le compagnie del mondo. È solo per il fumo. Capitano, penso che non sia possibile. Megafono. Prova megafono 1, 2, 3, 1, 2, 3, sa. Signora e signore, buongiorno. Qui è il capitano Tombele e il suo equipaggio, che vi porga il benvenuto a bordo del DC Scolifasco di Dato non si sa dove. Ci alzeremo una quota di 60-70 metri all'incirca e viaggeremo a una velocità di 65-67 km orari. L'arrivo è previsto, se tutto va bene, verso le 14. Come se tutto va bene? Al settimo tentativo, il vecchio Dakota si degnò di prendere quota. Allora, adesso non è che capiti sempre così, ma qualche volta, qualche viaggio è decisamente rocambolesco. Allora, buongiorno a tutti, da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Per iniziare questa puntata della nostra trasmissione abbiamo scomodato un film molto divertente, Pappa e Ciccia del 1982. Si raccontano le vicende di questo geometra interpretato da Paolo Villaggio che fa un viaggio, vacanze ai Caraibi, ma prima di partire ne deve sopportare di ogni colore. Poi lui pubblica addirittura una lettera, comunque ripercorre le sue vicende in una lettera che invia al Corriere della Sera, quindi anche lui scomodava i giornali in quel periodo, nel periodo appunto in cui è stato proposto il film. E nella sostanza avete capito il tema del quale vogliamo parlare oggi. Vogliamo parlare appunto delle nostre vacanze, di quando queste per qualche motivo possono andare a male. D'altronde siamo nel bel mezzo della stagione estiva e anche se il boom delle partenze come sempre è atteso nelle settimane centrali di agosto, e quest'anno probabilmente avranno un volto anche abbastanza particolare perché c'è crisi, come sapete molte famiglie hanno rinunciato anche alle loro vacanze, però siamo nel boom appunto della stagione. Allora, che cosa sta succedendo? Succede che, a parte il contrattempo legato alle condizioni meteo, di fronte al quale possiamo fare ben poco, e lo sappiamo bene perché peraltro a maggio molti weekend sono stati rovinati proprio dalla pioggia e anche molti weekend di giugno, ci sono però anche altre situazioni, altre circostanze che spesso possono trasformare la vacanza in una disavventura, a volte in un incubo. Uno sciopero improvviso, un bagaglio smarrito, un hotel che non ci presta il servizio pattuito o almeno quello che ci aspettavamo. La normativa a difesa dei diritti del turista si è decisamente rafforzata negli ultimi anni, la giurisprudenza ha portato anche all'indicazione del danno da vacanza rovinata e forse vale la pena rifare un punto della situazione fra codice del turismo, manuali dei diritti dei viaggiatori e quanto altro ancora. Oggi a Salva Danaio, in collaborazione con il Sole 24 Ore, che proprio settimana scorsa ha pubblicato uno speciale Sportello Vacanze, torniamo a parlare dei diritti del turista, del risarcimento in caso di vacanza rovinata, l'assistenza obbligatoria in caso di ritardo del treno, passando alle tutele nel caso di overbooking. La materia è molto ampia. Buongiorno a Matteo Prioschi del Sole 24 Ore. Buongiorno a voi. E buongiorno all'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'Associazione dei Consumatori, Casa del Consumatore. Avvocato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Tra l'altro volevo anche ricordare che tutte le associazioni dei consumatori in questo periodo sono particolarmente attive con iniziative di supporto ai propri associati, ad esempio la Casa del Consumatore, oltre allo Sportello del Turista, ha anche predisposto, ma non è una cosa nuova, è di qualche tempo fa, un'app del turista che si può scaricare sul proprio smartphone, credo, e quindi la si può portare con sé, naturalmente, proprio per avere anche un'indicazione chiara dei propri diritti in caso di disavventure. Poi ne parleremo. Come sempre, microfoni aperti ai nostri ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare come sempre a raccontarci le vostre esperienze anche sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Ma prima di tutto questo cominciamo direttamente con una testimonianza, e ne abbiamo una abbastanza particolare perché abbiamo anche noi deciso di rovinare la vacanza interrompendola per una manciata di minuti, diciamo. Valeria De Rosa, la nostra collega, la conoscete bene perché oltre ad essere conduttrice dei vari giornali radio e naturalmente spesso mi sostituisce anche a Salvadanaio. Intanto la saluto, Valeria, buongiorno. Ci senti? Buongiorno a te, sì Deborah, vi sento benissimo, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori. Allora, quando Valeria ha saputo che io avrei fatto questa trasmissione, naturalmente non ha mancato di subito, come dire, far venire fuori la sua vena di reporter, e siccome le è capitata anche a lei una disavventura nel tentativo di trasferirsi, non è che abbia fatto chissà quale viaggio del mondo, nel tentativo di trasferirsi praticamente dal continente all'isola, quindi per andare da Genova ad Olbia un paio di settimane fa, Valeria, raccontaci un po' che cosa ti è accaduto. È successo che il nostro viaggio appunto da Genova a Olbia è stato posticipato. Noi dovevamo partire alle 22:30 di domenica sera, ci è stato detto via SMS che saremmo partiti la mattina dopo alle 8 e quindi di presentarci a Genova alle 6 del mattino, che con un bambino piccolo in macchina per noi diventava davvero difficile. Tra l'altro ci è stato comunicato via SMS, quindi non avevamo possibilità su due piedi di chiedere un'altra possibilità di viaggio. Abbiamo dovuto attaccarci al telefono e devo dire che in quel caso la signorina del call center è stata molto disponibile, però comunque per noi è stato un disagio perché siamo stati poi dirottati su Porto Torres per partire sempre la domenica, e non vi dico la disorganizzazione perché siamo stati dirottati anche tra l'altro su un'altra compagnia, quindi diciamo che l'accoglienza e l'assistenza davvero hanno lasciato a desiderare. Tra l'altro eravamo tante famiglie con tanti bambini, non solo noi avevamo un piccolo al seguito, ma davvero l'assistenza è stata carente sotto ogni punto di vista. Ecco, perché mi pare di capire, Valeria, che come dire, l'ambito maggiormente problematico che tu sollevi è proprio questo: l'avaria al motore del mezzo con il quale dovevate andare ad Olbia. Ci sta, sì, può capitare. Quello può capitare, certo, però poi ecco, sul fronte dell'assistenza questa è stata davvero davvero esigua, davvero poco presente sia la compagnia, il personale. Se non avessimo sollecitato noi altre possibilità, diciamo che il posticipo del viaggio era l'unica cosa che la compagnia ci poteva dare, tra l'altro neanche garantendoci la stessa cabina per tre persone, quindi diciamo a disagio, ulteriore disagio. Che cosa intendi fare adesso, una volta che ti sarai potuta naturalmente godere completamente tutte quante le vacanze? Ma io intanto mi sono rivolta al customer care e quindi ho inviato loro una mail. Tra l'altro in questo caso devo anche dire che ho fatto un po' valere il mio ruolo di giornalista. Ho chiamato l'ufficio stampa della compagnia soprattutto perché quello che è successo a me possa essere in qualche modo d'aiuto ad altri, cioè ho fatto presente che era proprio l'assistenza che era mancata e che quindi se in futuro quest'estate si dovessero presentare nuovi ritardi o nuovi posticipi sarebbe proprio il caso di mettere a disposizione delle famiglie, soprattutto di quelle con bambini, un'assistenza più dedicata. Ti hanno chiarito se ti spetterà un indennizzo, un risarcimento? No, questo non mi è stato chiarito. Devo dire a onor del vero che io neanche l'ho richiesto in maniera esplicita perché ero talmente arrabbiata che primo pensiero è stato quello proprio di reclamare un'assistenza migliore. D'altronde, se la vacanza parte così, anche legittimo che uno si arrabbi. Valeria, grazie molto. Noi adesso chiederemo all'avvocato Ferrari che cosa ti spetta in questo caso e poi te lo trasferiremo immediatamente. Intanto buone vacanze a te, non pensare a Salvadanaio, un bacione al piccolo Alessandro. Grazie, un saluto a tutti voi. Grazie, buona vacanza naturalmente. Allora, vado subito all'avvocato Ferrari, Associazione Casa del Consumatore, ci dà subito due dritte su come può la nostra Valeria far valere i suoi diritti, lei e naturalmente anche tutte le famiglie che si sono trovate nella medesima condizione. Perché la prima cosa che ha disturbato è che si fosse trasferita la partenza al mattino dopo, cosa che ci sta, però Valeria questo poi me l'ha raccontato anche a microfoni spenti. Immaginiamo magari quelle famiglie che non si sono potute organizzare venendo il giorno prima a Genova per partire diciamo in un orario differenziato, no? Perché erano pronte chiaramente a partire alle 22:30, quindi non avevano neanche organizzato una notte fuori. Partire alle 6 del mattino non è la stessa cosa del giorno dopo, avvocato. Certo, ma su questa materia entrerà in vigore dal dicembre di quest'anno un regolamento europeo che poi è un po' la fonte. Questi regolamenti europei sono quelli che ci hanno dato un po' di regole nel viaggiare negli ultimi anni. Avvocato, la posso interrompere solo un attimo? Sta utilizzando un viva voce o è regolarmente la cornetta? Perché la sentiamo molto male. Provo a... In realtà sono una cornetta, però purtroppo è... No, va bene, era un po' ovattato. Provo a muovermi se mi... No, no, no, adesso stia tranquillo, va benissimo. Magari tentiamo di sistemarlo. Rendere dopo un po' col cellulare. No, no, lasciamo il fisso che è meglio. Va bene, quindi... E dicevo che soltanto a dicembre di quest'anno entrerà in vigore un regolamento europeo che detta delle regole precise proprio per casi come questo. È indubbio che la compagnia comunque doveva garantire un'adeguata assistenza che da un lato consiste nel fornire pasti, nel fornire comfort e assistenza ai passeggeri, dall'altro anche nel reperirgli una sistemazione alberghiera. Questo oggi non è espressamente previsto, è prevista la riprotezione, cioè l'obbligo di dare una collocazione nella prima partenza successiva della stessa compagnia o, come è successo in questo caso, di mettersi d'accordo con altre compagnie per far arrivare i passeggeri a destinazione, però ovviamente la compagnia ha anche questo obbligo di sistemare i passeggeri garantendogli, ad esempio in questo caso, anche un'adeguata sistemazione per il dormire. Certo, il tema della riprotezione peraltro è un tema che viene toccato molto spesso quando invece si verificano disagi in un altro contesto, che è quello dell'aeroporto. Matteo Prioschi, lo risaluto, leggendo l'attacco del suo pezzo, quello con il quale è stato presentato appunto la settimana scorsa lo speciale uscito con il Sole 24 Ore Sportello Vacanze. Matteo scriveva: due italiani su tre per andare in vacanza utilizzano l'auto, ma il mezzo di trasporto su cui si concentrano le critiche degli utenti per i disservizi subiti in Italia come in Europa, Matteo, l'aereo. Sì, sì, i numeri dicono questo. Diciamo che faccio una valutazione che forse può dar meglio l'idea di come vanno letti anche i dati, cioè che il trasporto aereo, pur con tutte le sue, diciamo così, toppe, le sue difficoltà, i suoi disservizi che puntualmente ci sono, ma anche i numeri legati ai traffici che comunque sono elevatissimi, quindi... Esatto, ma comunque è uno di quelli che ha più è stato più normato, diciamo, nel corso del tempo, no? E quindi diciamo che il numero di, diciamo così, segnalazioni, di report, di disagi che tutti gli anni periodicamente vengono ricevuti dalle associazioni consumatori piuttosto che dalle autorità che cercano di regolare appunto questo settore, va messo in luce tenendo conto di questi dati. Cioè ci sono molte più tutele codificate, per cui una volta che si verifica un disservizio la gente è anche più propensa, diciamo, e più stimolata a far valere i suoi diritti, e quindi nel momento in cui l'aereo non parte, l'aereo non parte in ritardo, sa subito quali sono i suoi diritti, a cosa dovrebbe avere in cambio, qual è il tipo di assistenza, e quindi se queste tutele non scattano, poi è anche più facile, diciamo, segnalare quali sono i disservizi ricevuti, così bene. Cosa ad esempio che appunto in auto non c'è. Se uno va in autostrada e incappa in una lunga colonna perché magari ci sono dei lavori ancora in corso, guarda che per me è l'ordine del giorno, dei lavori ancora in corso, non ci sono forme di risarcimento, non c'è niente. Stessa cosa ad esempio sul traghetto, le tutele ad oggi sono molto, molto minori, quindi sicuramente il trasporto aereo genera dei disservizi, però diciamo che l'aspetto positivo è che ci sono tutta una serie di regolamenti che mettono nero su bianco quali sono le tutele a vantaggio dei passeggeri. Ecco, ci hai detto anche una cosa interessante, che comunque i passeggeri, i viaggiatori partono molto più preparati del passato, quindi sanno già, qualora qualcosa andasse storto, che cosa possono far valere. Sì, soprattutto nel settore aereo, diciamo che nel corso degli anni ci sono state numerose campagne informative ad opera dell'ENAC, l'Internazionale Aviazione Civile, insieme alle associazioni consumatori, che tutto sommato hanno diffuso questa consapevolezza, hanno prodotto dei materiali piuttosto semplici, perché la normativa appunto nel corso del tempo si è estesa, e quindi poi servono dei prospetti, diciamo, degli assunti per sintetizzare quali sono gli strumenti a disposizione, ma questo ha fatto sì che i passeggeri siano molto più consapevoli, certo, rispetto al passato. Avvocato Ferrari, è d'accordo con questa visione? Si parte un po' più consapevoli, un po' più agguerriti e magari anche un po' più capaci di andare subito dritti al punto quando capita una disavventura, si ha magari già in mente la figura alla quale rivolgerci, si parte magari con un foglietto con tutte le indicazioni già pratiche su come risolvere una grana, il numero verde magari della compagnia alla quale ci siamo rivolti, al customer service prima citavamo, no? Ha un'idea, come dire, di consumatore più consapevole adesso? Ma sommato sì, io concordo con quello che è stato detto riguardo all'attività fatta dall'ENAC, in primis anche dall'Associazione dei Consumatori. Nei grandi aeroporti italiani troviamo spesso dei grossi cartelli che ricordano i diritti del passeggero. Sembra una fesseria, ma ogni giorno ci passano migliaia di persone davanti e sono molto utili. La stessa ENAC ha fatto degli opuscoletti molto semplici, molto schematici, che ricordano i diritti del passeggero. Vari altri hanno fatto iniziative. Noi, come giustamente veniva ricordato prima, abbiamo fatto un'applicazione gratuita in modo che uno sul suo smartphone o sul tablet può sempre avere a portata di mano i suoi diritti di turista, tra cui anche i diritti di viaggiatore sull'aereo, per cui devo dire che è uno dei settori in cui effettivamente è un po' cresciuta la consapevolezza dei propri diritti e effettivamente uno dei più normati, perché se parliamo invece di traffico ferroviario, parlavamo prima di navi eccetera, sono ancora indietro come normativa. L'Unione Europea si è preoccupata anche per le sue finalità di scambio di normare da subito invece i viaggi aerei. Certo, poi parleremo nel dettaglio proprio del cosiddetto danno da vacanza rovinata. Intanto direi di animare immediatamente la nostra trasmissione con alcune testimonianze. Sicuramente per un tema come questo le testimonianze la rendono ancora più accattivante e più divertente. Allora cominciamo con Roberto Da Luca, sentiamo che cosa gli è capitato. Roberto, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'opportunità, la saluti a tutti. Grazie. Ma quasi preceduto, perché parla di vacanze rovinate, io ne ho subita una e non racconto il caso perché comunque sia sono riassumibili in migliaia di casi, faccio alcuni cenni. Cioè abbiamo acquistato una vacanza viaggio in un villaggio turistico a Zanzibar, ci hanno venduto una cosa e ci siamo trovati totalmente in un'altra realtà, cioè piatti rotti, insomma. Tralascio questo fatto, l'unica cosa, ecco, quello che mi fa più rabbia è l'impotenza che io ho provato. Allorché, perché mi sono rivolto a delle associazioni di consumatori per cercare di avere un giusto risarcimento, e mi sono trovato veramente, cioè mi hanno offerto 50 euro e a quel punto poi ci voleva un avvocato. Mi sembra poi che la legge preveda anche la conciliazione, una nuova normativa per cui diventa tutto più difficile. Alla fine io ho rinunciato. Addirittura, la media conciliazione dovrebbe velocizzare i tempi della giustizia, invece lei ha rinunciato. In ogni caso, com'è finita questa storia? Intanto quanto aveva speso Roberto, quindi quanto anche investimento è stato bruciato, perché poi lei non si è goduto la vacanza naturalmente? No, io ho speso all'incirca più di 1000 euro, sono circa 1200 euro. Tra l'altro la stessa cifra nel villaggio accanto, le condizioni erano totalmente diverse, ma proprio poi io ho comunque un book, ho fatto tutta una relazione, cioè esatto, ho fatto bene. Non è bastato neanche quello, cioè voglio dire, perché comunque alla fine ci vuole l'avvocato, ci vuole il tour operator, se poi lo volete sapere chi è, volentieri ve lo dico, ma non so se si Beh, può. Voglio dire, se è successa questa cosa, se non è una, come dire, diffamare un'azienda, una figura, per quale motivo non ce lo dovrebbe dire? Ce lo dica. No, perché magari l'avvocato Ferrari conosce anche la situazione, magari gli è anche capitata. Sì, è la Phone & Go, nel villaggio, un villaggio a Zanzibar, posto magnifico, però veramente il villaggio, noi ci siamo trovati con, cioè le fotografie renderebbero chiara la situazione e credo che nessuno mi possa smentire, anche perché insomma l'hanno vissuta altri. Però vacanza completamente rovinata, andata male, e nessuno che si può riuscire ad interpellare per avere un risarcimento adeguato. E lei dice comunque non mi sono sentito neanche aiutato dall'associazione dei consumatori, tour operator assente, completamente assente, 50 euro di indennizzo mi sembra veramente poco, qua forse lei chiede appunto risarcimento integrato. Adesso integrale, commenteremo il suo caso. Roberto, io non conosco questo tour operator, ci faccio riflettere un po' sull'avvocato Ferrari, però mi faceva sorridere il racconto, Matteo, dell'esperienza di Roberto, perché parlavamo prima di consumatore più consapevole. Qualche anno fa magari nessuno immaginava, di fronte ad una disavventura, di documentare tutto dal punto di vista fotografico. Invece adesso siamo molto attenti, visto che lo possiamo fare anche tranquillamente con i telefoni. Esatto, un vantaggio è che appunto ormai ognuno ha in tasca un telefono che consente di effettuare le fotografie, quindi è molto più semplice. L'altra cosa, appunto, c'è una maggior consapevolezza. La terza cosa è che quello che, diciamo così, ha vissuto in prima persona l'ascoltatore è spesso la realtà, cioè che i diritti ci sono, le norme anche, e ovviamente in alcuni settori di più, in altri meno, comunque ci sono, e però poi far valere i propri diritti può essere una trafila molto lunga e quindi comunque non ci si deve perdere d'animo, cioè l'ascoltatore ha iniziato bene con appunto fare una documentazione attenta di tutto quanto è successo. In effetti poi i passaggi sono quelli, in genere è meglio appoggiarsi a un'associazione consumatori, c'è la conciliazione e in ultima istanza c'è il giudice di pace, che tutto sommato forse vale la pena, è un percorso che vale la pena perseguire, perché le vittorie dei consumatori in questo settore sono numerose. Mm-hmm. Quindi si impiega un po' di più, si spende di più all'inizio, però se poi si ha il rimborso integrale. Tra l'altro in questo caso non solo si ha si ha diritto, poi sarà il giudice eventualmente appunto a stabilirlo, ai danni, diciamo così, per le cose non usufruite, ma c'è il danno da vacanza rovinata, che appunto questa tutela introdotta al codice del turismo, che praticamente non solo è un risarcimento per i danni diretti, ma anche per ciò che non hai fruito in buona sostanza. Cioè tu sei andato in una struttura che non è all'altezza delle aspettative, quindi hai perso un'occasione rispetto a quello che ti era stato prospettato. Questa differenza merita un risarcimento che viene stabilito adeguato. Di volta in volta. Devo attribuire la palma del messaggio più divertente questa mattina a Fabrizio da Pesaro, che al 349-238-6666, commentando il caso che abbiamo ascoltato prima, l'ascoltatore che è andato a Zanzibar ma ha trovato un villaggio vacanze notevolmente al di sotto delle sue aspettative e quindi chiaramente chiede di essere indennizzato perché ritiene che la sua vacanza sia stata rovinata, ha documentato tutto in maniera molto dettagliata fotograficamente. Fabrizio da Pesaro scrive: quindi se vado in una struttura che si dimostra ben al di sopra delle mie aspettative devo pagare la differenza? Fabrizio, guardi che la struttura dove va sarà ben contenta se lei vuole premiarla in questo modo di ricevere il suo consenso espresso in termini monetari in questo modo. Chiaramente stiamo scherzando, non credo che succeda così, però per situazioni ben al di sotto delle aspettative e soprattutto delle promesse, perché poi le aspettative sono una cosa, ma le promesse per le quali uno paga sono ancora un'altra. Un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, che credo si chiami Deborah come me, perlomeno scrive: ciao Deborah, non so se saluta me o è un'ascoltatrice, comunque anche a noi è successo la stessa cosa, ma in Tunisia nel 2007, i viaggi del turchese, questo era il tour operator, ci ha dato poi un voucher di 50 euro a testa per un prossimo viaggio con loro. Allora, avvocato Ferrari, 50 euro di fronte ad una spesa di 1200, quella sostenuta dall'ascoltatore di Lucca, mi sembra del tutto inadeguato? Sì, assolutamente inadeguato. Il codice del turismo non parla, diciamo, di un non dà una quantificazione che è rimessa a una valutazione, si dice, equitativa da parte del giudice. Però per quello che sono state le sentenze che abbiamo, a cui si è assistito nel tempo, perché è stata un'elaborazione giurisprudenziale che poi alla fine ha portato il legislatore ad adeguarsi a questo diritto che di fatto veniva riconosciuto dai tribunali, veniva riconosciuto sicuramente un importo pari almeno alla parte di vacanza rovinata. Cioè nel caso di questa persona, di Lucca, se per esempio ha fatto 12 giorni di vacanza e ne ha avuti, che so io, 7 rovinati, esclusi magari delle gite fatte fuori dal villaggio, il viaggio di andata e ritorno, eccetera, dovrebbero essere 700 euro, perché sarebbe la porzione, diciamo, di vacanza che è stata rovinata. 50 euro è veramente ridicolo, devo dire. Mi sembra anche una regola, perché sento anche l'altro ascoltatore che poi parla di nuovo di 50 euro. Ah sì, poi un voucher da spendere di nuovo con loro, per carità. Sì, addirittura neanche un rimborso di somme. Diciamo che nella valutazione del danno da vacanza rovinata, che si applica soltanto nel caso di pacchetti turistici, quindi se io affitto la casa di vacanza in montagna e ci vado in macchina con la mia famiglia, non si applicano queste regole, fermo restando che se subisco dei danni ho, in base alle regole generali dell'ordinamento giuridico, diritto ad avere un risarcimento. Però queste norme del codice del turismo si applicano ai pacchetti turistici, dove per pacchetto turistico si intende una combinazione di elementi in cui ce ne siano almeno due dei tre che vado a dire, che sono il viaggio, l'alloggio e poi servizi turistici accessori. Quindi nel caso della Tunisia era chiaramente un pacchetto turistico, se vuole coltivare i suoi diritti lo faccia, perché c'è un anno di tempo, poi si prescrive il diritto al risarcimento del danno. Per e cui quindi occhio. Bisogna meglio battere il ferro finché è caldo, anche perché magari ci si ricorda bene di tutti quanti i dettagli e quindi forse la denuncia magari ha un po' più valore. Max D'Ancona, magari avvocato Ferrari, questo caso le interessa per arricchire anche la giurisprudenza della quale le dispone. Max ci racconta che nel 97 è andato in Polinesia, una vacanza importante a livello economico, purtroppo tra ritardi di aerei, mancata assistenza sul posto, cambi di albergo al volo, grazie alla sua compagna molto tenace è riuscito, e grazie anche ad un buon avvocato, ad avere un maxi risarcimento dopo 12 anni. E anche perché questa giovane, appena tornata in Italia, fece minuto su minuto la relazione di ciò che non andò bene. Se l'agenzia, ci dice Max, ci avesse rimborsato un 20% del viaggio subito, avrebbe risparmiato tantissimo, invece ha pagato molto dopo 12 anni, appunto per questo maxi risarcimento che è stata condannata a versare. Un altro caso, sentiamo Giuseppe Daenna. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, ci racconti. Sì, allora, guardi, io ho fissato un pacchetto turistico con Costa Crociere, era la cosa di cosiddetta crociera delle sette capitali, con partenza da Amsterdam, aveva una durata di 10 giorni. Ebbene, può avvicinare la bocca al telefono, Giuseppe? Sì, grazie, sì. Siamo arrivati assolutamente in tempo all'aeroporto di Amsterdam, nel pacchetto turistico era previsto anche il transfer dall'aeroporto al porto, con un pullman appunto di Costa Crociere. Siamo arrivati 3 ore prima in aeroporto, tuttavia stranamente ci hanno messo su un autobus che non partiva mai. Abbiamo chiesto delle spiegazioni delle guide di Costa Crociere, che purtroppo non parlavano l'italiano, ci hanno sostanzialmente rassicurato dicendoci di stare tranquilli perché siete in 26, eravamo 26 italiani su questo pullman. Bene, la faccio breve, il pullman partì proprio 5 minuti prima della partenza della nave, ovviamente siamo arrivati in porto e la nave era già andata. Era già bella che è andata. Hanno offerto a bordo prima un risarcimento di 100 euro a persona, dopodiché, dopo vibrate proteste, di 200 euro a persona, ovviamente da spendere a bordo. E dopodiché a bordo di che cosa? Della nave? Con sostanzialmente con i gadget oppure con le bevande che si consumano sulla nave. Dopodiché hanno promesso, ma non mantenuto, il risarcimento di una giornata di crociera. Io faccio l'avvocato, ho fatto ovviamente il contenzioso giudiziario che è in questo momento pendente. È in corso. Giuseppe, no, tra l'altro tutto questo, mi scusi, forse avrei dovuto capirlo dal racconto, ma non ci sono arrivate. È successo all'inizio della vacanza o verso la fine? A che punto era? Cioè l'imbarca ad Amsterdam? Abbiamo anche perso, perché praticamente cosa succede? Ci hanno poi fatto dormire ad un albergo di Amsterdam, e abbiamo dormito, per modo di dire, perché sostanzialmente abbiamo dormito solo 2 ore, perché alle 2 ci mettono su un pullman e raggiungiamo via terra Amburgo, dove però era prevista l'escursione che noi non abbiamo potuto godere. Ecco, quindi avete perso un bel po' di cosine, insomma, ecco. Abbiamo perso l'escursione di Berlino, sostanzialmente partendo dalla Sicilia, lei potrà immaginare, abbiamo fatto quasi 40 ore di viaggio ancora prima di raggiungere la nave, per un disservizio ovviamente imputabile al transfer di Costa Crociere. Certo, le hanno spiegato il motivo per cui questo pullman non partiva, quello che ha originato? Niente, non se ne sa nulla. Sono ancora curioso di capirlo. Cosa è successo? Cosa sarà mai successo ad un pullman che doveva trasportare 26 persone? Immaginato che forse aspettassero qualche altro passeggero, ma questa è la sua interpretazione. Non ne abbiamo avute e siamo ancora veramente molto arrabbiati. Eravamo in 26 italiani. Infatti, quindi non era neanche un viaggio con 300 persone. Siamo arrivati all'aeroporto di Amsterdam con un charter partito da Roma, proprio noleggiato da Costa Crociere. Grazie Giuseppe, avvocato Ferrari. Questo caso cosa le suggerisce? Beh, intanto questo collega, meno male che lui si difende da solo, non ha bisogno di particolari consigli, a quanto ho capito si è già mosso. Diciamo che questo ci suggerisce che cosa? Di evidenziare una peculiarità di questo danno da vacanza rovinata, cioè è maggiore il danno tanto quanto maggiore è l'irripetibilità dell'occasione. Lui giustamente citava un'escursione che avrebbero dovuto fare ad Amburgo, cioè cose che per una persona che risiede in Sicilia non sono così facilmente ripetibili. Ecco, avesse dovuto fare un giro organizzato a Piazza Armerina, magari poteva ripeterselo. In Germania è già una cosa che probabilmente un giudice è più sensibile a dare un risarcimento maggiore proprio per la difficile ripetibilità della cosa, portandolo agli estremi. Se il danno succede nel corso, ad esempio, di un viaggio di nozze, è ancora maggiore. Ancora peggio, certo. Allora, stavo guardando anche i numerosissimi messaggi che ci arrivano. C'è chi ci chiede, Matteo, chiedo un supporto a te, se stiamo parlando di viaggi prenotati su internet o di viaggi prenotati tramite agenzie. Allora, dato per scontato il fatto che oggi una mole sempre più ampia di viaggi e di vacanze viene prenotata attraverso il canale web, forse l'agenzia adesso ha un po' meno fortuna rispetto al passato, purtroppo per loro, perché comunque è anche un settore professionale che soffre parecchio per la crisi, per tanti motivi. Diciamo che in ogni caso la rosa delle tutele è la stessa. Forse quando c'è un'agenzia che intermedia le nostre richieste, magari abbiamo forse un interlocutore in più al quale rivolgerci, ma questo rappresenta una maggior sicurezza? Sostanzialmente le norme appunto sono le stesse, sia che si compri su internet o che ci si affida alle agenzie di viaggi. Diciamo sì che nel caso di così in qualche inconveniente la figura dell'agente di viaggio può essere un punto di riferimento maggiore. Poi non è detto che aiuti nella sostanza a risolvere la situazione, magari può essere un passaggio in più che complica le cose, e dipende poi appunto da chi ci si trova di fronte e come gestisce la situazione. Per quanto riguarda diciamo le norme generali, tanto vale quando si acquista su internet che quando si acquista in agenzia di viaggio. Peraltro appunto la nozione di pacchetto turistico vale sia che lo compri su internet che basta che sono abbinate, sì, di viaggio e soggiorno, viaggio e servizio e così via. Stessa cosa il biglietto aereo piuttosto che il biglietto della nave, ormai i canali sono analoghi. Antonio ci scrive: sono tornato ieri da Minorca, beato lei, tutto bene come da pacchetto viaggi che evidentemente aveva prenotato, meno male. Qua oggi è chiaro che noi parliamo solamente delle situazioni che vanno storte, ma non ci dimentichiamo che la gran parte dei viaggi che le famiglie italiane scelgono di fare vanno bene, per fortuna, e si divertono tutti quanti. E un altro ascoltatore, Luca, dice: Deborah, consideri che la maggior parte degli italiani sono viziati e mai contenti, quindi le denunce vanno prese con cautela. Prendiamo anche questo commento, Luca. C'è però da dire che chiaramente dai casi che abbiamo sentito sono delle situazioni anche abbastanza evidenti, non stiamo prendendo dei microcasi, non stiamo prendendo le lamentele di chi magari arriva in albergo e invece della Coca-Cola nel frigobar ha trovato solamente l'acqua, stiamo parlando appunto di vacanze compromesse in termini molto più gravi, molto più seri. Abbiamo adesso Claudio da Firenze. No, ecco, proprio appena l'ho interpellato è caduto. Andiamo alla simpatica Cesarina da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti tutto. Allora, un racconto difficile e lungo. Dunque, noi per i nostri 25 anni di matrimonio decidiamo con mio marito, noi mai fatto una vacanza in villaggio perché siamo abbastanza zingari come vacanzieri. Un po' come però in quell'occasione, insieme con un'altra coppia di amici, anche loro festeggiavano il loro 25esimo di matrimonio, decidiamo di andare in Egitto. Dunque prenotiamo questa vacanza 2 settimane per circa 7.000 euro, partiamo la prima settimana con una coppia di amici e la seconda settimana ci avrebbero dovuto raggiungere un'altra coppia. Dunque partiamo, il primo inconveniente, ci smarriscono una valigia. Mamma mia, che ok, quindi va bene, siamo lì, cerchiamo, però se non fosse stato per noi, pagata, abbiamo dovuto interpellare delle persone che erano sul posto, comunque insomma a distanza di una settimana riusciamo a ritrovare dietro pagamento questa benedetta valigia. Ma senza pagamento in che senso? Ho dovuto pagare una abbiamo dovuto pagare sia la persona che ci ha portato per 2 volte in aeroporto, ci siamo dovuti pagare il taxi e poi abbiamo dovuto dare una mancia a chi effettivamente era lì ai bagagli, nel deposito bagagli dove questa affinché valigia velocizzasse il ritrovamento, esatto, del vostro velocizzasse bene tutto quanto. Ok, e questo è il primo inconveniente. Poi, a parte il fatto che la stanza non era pulita, però dice vabbè, ci passiamo, non c'era l'acqua, ce la siamo comprata per 15 giorni, perfetto. Il problema si è verificato ritornando a casa. Noi 2 giorni prima del ritorno siamo stati avvertiti con un fogliettino inserito sotto la porta che saremmo dovuti rientrare invece del sabato sera il venerdì mattina alle 5, quindi alle 5 ci imbarchiamo, cioè partiamo da questo resort. Cioè, 2 giorni prima quasi, se va a vedere i giorni pieni. Sempre 4 persone faccio presente. Comunque partiamo, quando andiamo all'aeroporto per l'imbarco io non ero proprio inserita sulla lista di imbarco, quindi mi fanno comunque partire per forza e noi ci eravamo un po' opposti perché se fosse successo qualcosa, dice, magari non eravamo neanche nella lista dei passeggeri, comunque partiamo. Non arriviamo a Roma perché noi siamo di Roma, arriviamo a Pisa. Comodo. Da Pisa ritorniamo a Roma con a spese vostre? Ah, no. No, il pulmino ce l'ha messo a disposizione il tour operator. Quindi ritorniamo imbufaliti, facciamo questa lettera alla Sprint Tour. La Sprint Tour ci riconosce un rimborso di 300 euro, nonostante noi durante quella settimana avessimo dovuto comprare proprio le ciabatte, un costume, proprio il minimo indispensabile. E ci rivolgiamo ad un giudice di pace. Questo giudice di pace adesso a gennaio ci ha dato la sentenza negativa. Perché? Non ha riconosciuto la vacanza rovinata, non ha riconosciuto nulla, neanche i 300 euro che di prima istanza ci erano stati riconosciuti dalla Sprint Tour, sempre non in denaro ma da come uno sconto da poter usufruire sul loro catalogo, e perché il giudice ha sentenziato che andando in un paese, noi eravamo andati a Marsalam, essendo andati in un posto comunque che era all'inizio, questo è successo 4 anni fa, dovevamo essere coscienti che ci sarebbero potuti essere dei disagi e quindi... Sì, vabbè, ma un viaggio, voglio dire, di cui il tour operator decreta la fine 2 giorni prima in quel posto, non mi sembra esattamente una questione della quale una persona debba essere preparata ad affrontare, lo smarrimento dei bagagli tantomeno, e soprattutto sostenere tutte le spese per recuperare queste valigie. Cesarina, io sentendo questo caso mi inalbero e non poco, sentiamo un po' l'avvocato Ferrari, perché fossi un avvocato mi pruderebbero anche un po' le mani. Abbastanza dell'assurdo questa situazione. La riaprirebbe lei? Cosa? La riaprirebbe con un ricorso? Non so che cosa possa fare Cesarina. In questi casi si può fare appello al tribunale. I giudici di pace, diciamo che hanno il pregio che a volte non abbiamo diritto a qualche cosa e con un'interpretazione un po' elastica della norma ce lo danno, altre volte però forse non si accorgono che esistono delle norme che ci riconoscerebbero dei diritti, e non essendo tecnici fino in fondo come sono i giudici ordinari di tribunale, a volte gli sfugge questa situazione, perché un ragionamento del fatto che andando in certi paesi certe cose possono accadere mi sembra veramente assurdo, devo dire, e per cui è una sentenza che grida vendetta a parer mio. Non a caso lo stesso tour operator aveva riconosciuto comunque un indennizzo anche in forma di sconto eccetera, però aveva riconosciuto una propria colpa, per cui non riesco veramente a comprenderla. Come mai non si sia sforzato il giudice di pace quantomeno a stabilire una cifra un po' più alta, detto che ci siamo trovati anche di fronte a delle persone piuttosto civili nell'esprimere il loro disappunto. Allora, volevo sentire invece Giancarlo da Vimercate, perché pure si è trovato a gestire una disavventura che però si è conclusa bene perché ha già ricevuto il suo rimborso. Giancarlo? Sì, buongiorno. Buongiorno. 15 giorni fa ero a Cipro, in un villaggio Turisanda, c'è stato uno sciopero degli addetti del personale. Aspettavano proprio lei, Giancarlo, no? Sono arrivati qua, dandoci chiaramente un minimo o un massimo di disagio, diciamo un medio disagio. Quindi cosa è successo, Giancarlo? Non le rifacevano il letto, non pulivano le camere? Sì. Come si è trovato? È così. Però in vacanza si può anche reggere per un paio di giorni. Ma sì, con la doccia, voglio dire, il lenzuola, non è necessario cambiarlo ogni 2 secondi. Certo, però in ogni caso appena rientrati abbiamo fatto, siamo andati alla nostra agenzia che ci ha prenotato il viaggio, e il villaggio era Turisanda, quindi una volta tanto in Italia quando va bene, e abbiamo ricevuto 3 giorni dopo il rimborso di 2 giorni a testa a di mia moglie, totale di 420 euro già bonificati sul conto corrente. Lei è stato soddisfatto, Giancarlo, dell'indennizzo? Sì, il disagio c'è stato, però il rimborso è stato tempestivo ed equo. Tempestivo, ecco. Molto bene, Giancarlo, bene che possiamo raccontare anche quando, Matteo, le cose funzionano, no? Sì, che poi diciamo che può essere un modo per riavere il cliente in futuro, dare un risarcimento, riconoscere un risarcimento equo e in tempi rapidi, come è avvenuto in questo caso. C'è un altro ascoltatore che ci scrive, sempre relativamente alla mancata assistenza che si può manifestare, e Alberto dice: questo è un problema come al solito tipicamente italiano. Nel mio caso, aereo di rientro da Bangkok, ritardo di 6 ore, coincidenza per l'Italia persa. Thai Airways dopo 10 minuti ci aveva già sommerso di buoni pasto per tutti i ristoranti dell'aeroporto e ci ha pagato una notte all'Hilton Airport di Francoforte. Allora, sì, ho ancora qualche minuto di tempo, sentiamo che cosa è successo a Santo da Bassano del Grappa. Santo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Dunque, io ho un contenzioso con la Wingjet da un anno, che potrei definire più che una compagnia aerea un muro di gomma, perché l'anno scorso, esattamente il 30 di luglio, mia figlia doveva partire da Venezia per Catania con un volo Wingjet. Dopo 5 ore di attesa immotivata gli hanno detto che il volo era stato cancellato senza nessuna spiegazione. E dopodiché gli hanno dato quel minimo di assistenza necessario, l'albergo, poi l'indomani mattina li hanno riportati in aeroporto con, diciamo, dicendo: arrangiatevi, perché altrimenti la disponibilità è quando capita un nostro volo. Così mia figlia ha fatto un altro biglietto, l'ho pagato di più di quello che era pagato ed è partita. Io ho fatto dopo 2 giorni il reclamo, cioè scaricando proprio tutto quello che era il modulo necessario per fare il reclamo. Ho chiesto semplicemente il rimborso del biglietto, neanche le 250 euro che mi sarebbero dovute venire per il risarcimento. Questi non mi hanno risposto, raccomandate con ricevuto di ritorno, tutto quanto, silenzio assoluto. Passano 2 mesi, rifaccio la richiesta di nuovo dicendo che niente, le stesse cose. È proprio un muro di gomma, non rispondono, non mi dicono se ho diritto o non ho diritto. Allora, aspetti lì, addirittura, Santo. Addirittura ho anche interpellato l'ENAC, ho fatto ricorso lì, assolutamente zero. Zero. Avvocato Ferrari, è una situazione che conosce questa? Sì, stavo per consigliare di rivolgersi all'ENAC, ma mi sembra che anche questo. Allora, questa compensazione pecuniaria dei 250 euro dovrebbe averla per forza, per cui. Allora, la compagnia ha fatto quello che doveva fare, ha riprotetto la cliente, ha riprotetto il passeggero facendola dormire, eccetera, però poi non le ha garantito il giorno dopo una partenza con un altro volo, magari di un'altra compagnia, perché ha detto: aspettiamo quando riparte un nostro volo. Questo è un comportamento corretto? Sì, diciamo che loro sono tenuti a garantire sui loro voli una nuova ripartenza, però devono pagare l'indennizzo per la mancata partenza e poi far scegliere il passeggero se vuole avere il rimborso del biglietto, e allora a quel punto può impiegare i soldi per acquistare un altro biglietto che magari gli costerà di più essendo all'ultimo, però almeno una parte avendo il rimborso lo utilizza per comprare il nuovo biglietto, oppure può aspettare di essere riprotetto su un altro volo. 10 secondi, Matteo Prioschi, che ne pensi di questo caso? Che la compagnia dovrebbe in teoria riproteggere dove possibile, prima possibile, cioè anche su altre compagnie. Il problema è che molte compagnie low cost questo non lo fanno proprio di default. Certo, perché il volo solo, che eventualmente è molto voli. Più alto di costo, esatto. Certo. Ti offrono solo i loro voli e quindi magari i tempi d'attesa lunghi. L'altra cosa è che l'ENAC in genere la gestione dei reclami varia da 2 mesi, 5 mesi, 6 mesi, quindi qualche volta scoraggia un po' rivolgersi a questo ente. Non disperare, magari lo stanno farlo gestendo ugualmente. E arriverà. Grazie a Matteo Prioschi, l'avvocato Ferrari. Non riesco ad ascoltare il caso di Claudio da Firenze. Claudio, ci scriva e magari l'accontenteremo con un altro canale. Grazie a tutti, a domani.